la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La prima volta, prima puntata dell'anno, puntata che abbiamo deciso dovesse essere carica di speranza, piena di bellezza, leggerezza e profondità. In fondo tutte cifre che si ritrovano nel personaggio ospite di questa settimana, Danilo Ragona. Ragona è un designer per necessità, nel senso che la vita a un certo punto lo ha messo davanti a un bivio. La mia storia, diciamo, dove poi ho costruito tante dinamiche differenti, parte da dopo l'incidente. Io ho avuto un incidente in auto a 21 anni, e sono finito in carrozzina, ho una paraplegia, mi sono, come si suol dire, rotto la schiena, e chiaramente è stato un trauma molto grande, che però fortunatamente, vista l'età e anche il carattere, mi sono tirato subito le maniche e ho cercato di mettermi di nuovo in gioco. E quindi, come si suol dire, ho cercato di farne da una grande difficoltà, tranne delle opportunità. E difatti mi sono riscritto all'Istituto Europeo di Design qui di Torino, perché già l'intenzione era quella di cercare di sviluppare una carrozzina che migliorasse la mia indipendenza e autonomia, ma soprattutto anche lo stile e la bellezza del prodotto che avrei dovuto indossare per tutta la vita. E quindi già l'ultimo anno ho partecipato a un concorso che era idee di impresa e ho presentato questa carrozzina che oggi indosso, multifunzionale, con un design molto, molto accattivante. E da lì è cominciato il mio percorso. Ho colto l'occasione delle Paralimpiadi qui a Torino nel 2006 per presentarla, ed è nata l'azienda Able to Enjoy, che progetta, produce e commercializza questo prodotto. Diciamo, ho fatto la cosiddetta autoproduzione, cioè come design ho provato poi a contattare altre aziende per vendere il prodotto, cioè per vendere l'idea del prodotto, però non c'era, diciamo così, volevo creare anche un linguaggio diverso sul prodotto, non solo cedere un prodotto. Quando dico linguaggio voglio dire che l'intenzione era quella di non farlo diventare più un ausilio, ma che diventasse un prodotto come tutti gli altri prodotti, quindi non più un ausilio medicale, ma un prodotto da indossare. Dunque, questa fino a qui è la storia, diciamo, di come è nata l'azienda, esatto. Io volevo anche chiederti, visto che sei, intanto quanti anni hai adesso? Perché 38, quindi sono passati 17 anni dall'incidente. Sì. Volevo chiederti quanto secondo te è cambiato il paese rispetto proprio al tema della disabilità in questi 17 anni? Fortunatamente moltissimo, perché devo dire che tantissimo quando è entrato internet ha dato questa bella occasione di poter vedere velocemente in giro per il mondo quali altre persone che vivevano questa stessa difficoltà facevano, no? Quindi in termini di attività sportiva, lavorativa o quant'altro. E visto che nella disabilità, diciamo, la mobilità è la cosa poi più difficile, no? Questo soprattutto 17 anni fa devo dire che era molto più complicato, no? E quindi internet sicuramente ha dato questa possibilità di vedere più velocemente cosa attorno ti succedeva. E poi comunque ho visto che negli ultimi 10 anni le aziende hanno visto in questo mercato anche un business per sviluppare tecnologie e migliorare e rendere la vita più autonoma e libera per chiunque. Infatti non per niente ho appunto avviato l'azienda, perché al di là poi della mia disabilità ho visto comunque in questo mercato un mercato che poteva essere un mercato bello su cui lavorare, no? Indipendentemente poi da che cosa. E quando dico bello, perché comunque mi piace anche sempre portare i numeri, quando vado dalle aziende per trovare delle collaborazioni La prima cosa che dico è, ragazzi, in Italia sono più di 3 milioni le persone che vivono una disabilità, questa disabilità, ci sono diverse disabilità, poi in Europa circa il 15%, nel mondo ci sono 900 milioni di persone che vivono una disabilità, 900 milioni di persone che pagano le tasse, consumano e vogliono continuare a vivere questa vita come qualsiasi altro tipo di persona. Tu hai detto che hai proprio cambiato l'approccio, cioè l'approccio anche di vendita del prodotto, cioè tu hai detto indosso la carrozzina, hai puntato sul colore, hai proprio cambiato l'atteggiamento rispetto al tema della disabilità stessa, cioè che diventa, e forse qua si può ripartire dall'inizio di questa intervista, che diventa quasi una risorsa, insomma adesso in senso lato perché alcuni magari potrebbero criticare questa cosa. Sì, esatto, ma direi che infatti ti racconto l'ultima esperienza del lancio della nuova carrozzina che è successo il 3 ottobre durante la Milano Fashion Week. La Fondazione Vertical, che fa ricerca sulla mielolesione, ha avuto l'idea di fare un format di modelle normodotate, modelle in carrozzina in passerella. E questa cosa l'ha lanciata a Roma, poi sono andata addirittura a New York, ha avuto una grande risonanza mediatica ed è riuscito a entrare dentro la scatola difficile del Milano, milanese sulla moda. E quindi in quell'occasione io ho presentato, diciamo, un nuovo modello di carrozzina, ho vestito le 14 modelle paraplegiche in carrozzina, ma la cosa particolare erano tutte le carrozzine erano in coordinato all'abito che indossavano. E quindi non più un oggetto che diventava quasi un accessorio, no, in quell'occasione, e quindi ha dato completamente un altro punto di vista all'oggetto carrozzina, ma soprattutto appunto l'intenzione di entrare anche in realtà come la moda con un prodotto che sta uscendo fuori proprio da ogni schema. Il fatto di essere riuscito a fare questo tipo di operazione è perché ho preso l'innovazione anche di questo nuovo modello di carrozzina, che ho preso le ruote delle biciclette fixed che sono particolari perché si possono cambiare tantissimi colori di gomme, cerchioni e qui ad un prezzo molto basso. E quindi questa cosa portandola l'ho trasferita sulle carrozzine e facendo così sono riuscito sia ad abbassare il costo del prodotto che poi a dare quest'alta possibilità di personalizzazione delle ruote. Ecco, volevo chiederti un'altra cosa. Diciamo che dietro questo tema della bellezza e della vivacità, no? Quindi il colore, il tema dell'indossare, eccetera, forse c'è anche un altro grande tema che è quello l'hai appena introdotto, del raggiungere anche chi oggi, ancora oggi, non si può permettere di avere uno strumento per muoversi. Magari in Italia i numeri sono bassissimi, ma se guardiamo nei paesi ancora in via di sviluppo, insomma, la possibilità di avere una carrozzina diventa un miraggio. Questo è anche, su questo anche tu hai lavorato, stai lavorando? Sì, su questo diciamo sto lavorando in una dinamica differente, nel senso che il progetto Able to Enjoy voleva essere una sorta di zaino per potermi strutturare e poter dar vita a progetti magari dal contesto più sociale. E infatti io e Luca Pagliardi, un caro amico anche lui in carrozzina, abbiamo deciso di viaggiare in giro per il mondo per raccontare da quest'altro punto di vista il viaggio. Non è un viaggio di denuncia, ma è un viaggio proprio dove raccontiamo come la tecnologia, i prodotti, i servizi aiutano oggi, ci aiutano a diventare più autonomi e indipendenti e far conoscere quindi tecnologie, aziende, servizi, società e quant'altro che fanno il mazzo per cercare di rendere la vita migliore anche per chi vive questa diversità. Quindi, ad esempio, su quest'idea, che è un'idea che un po' deriva da quello che sta diventando il marketing adesso, il marketing si dice che stia lavorando sviluppando tecnologia attraverso l'experience, no? Attraverso l'esperienza. E quindi noi ci siamo messi in gioco e abbiamo detto facciamola noi proprio l'esperienza. Quindi una sorta di, chiamiamolo così, incubatore viaggiante, no? Incubatore di idee viaggiante, non più statico in una città ma dinamico in diverse città. E proprio su quest'idea è partita e dal 6 giugno al 6 luglio io e Luca abbiamo attraversato tutta l'Italia in un mese, 30 giorni, 30 tappe, tutte chiaramente programmate e organizzate, ma e ogni giorno facevamo un'attività diversa e degli incontri diversi, quindi abbiamo fatto sci nautico, barca a vela, ultraleggero, parapendio, roccia, sub. A Napoli siamo andati in un'azienda agricola accessibile anche a raccogliere pomodori e melanzane. Insomma, il fatto di fare tutte queste attività era la scusa anche per mettere un piede nella porta e raccontare delle altre storie, perché spesso non ci rendiamo conto che abbiamo come vicino di casa magari l'atleta paralimpico di sci nautico e noi siamo andati a incontrarlo e quindi abbiamo raccontato la sua esperienza, abbiamo fatto esperienza. In quel caso il fatto di fare anche quel tipo di attività è perché c'era un prodotto tecnologico che è nato da pochi anni e che gli ha permesso di fare quel tipo di attività. Quindi anche la bellezza oggi delle tecnologie è il fatto che ci dà la possibilità, al di là di vivere anche una vita più in libertà, ci dà la possibilità anche di far nascere attività sportive che mai avevamo immaginato di poter di nuovo ricominciare a fare nonostante la nostra disabilità. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Seconda parte della nostra trasmissione che ha come ospite Danilo Ragona. Danilo Ragona ha 38 anni, è di Torino, è paralizzato dalla vita in giù da quando aveva 21 anni per un grave incidente e per lui, come sentirete, avete sentito nel corso dell'intervista, la libertà è tutto. La libertà di muoversi in primo luogo, soprattutto quando si ha una disabilità. Una spinta così forte che ha portato Danilo a progettare e realizzare delle carrozzine ultraleggere con ruote di bici che possono cioè andare ovunque, sulla sabbia, sulla neve, un sogno di libertà che lo ha portato a girare l'Italia assieme al suo compagno di impresa e di viaggio, un'avventura che con questo nuovo anno ricomincia. Abbiamo deciso di portare avanti il progetto, che era già quella l'intenzione, e il 2017 sarà in Europa, quindi non più Viaggio Italia ma Viaggio Europa. Stiamo proprio chiudendo in questi giorni, anche da presentare gli sponsor, perché sottolineo che questo progetto prende vita anche al di là delle volontà, grazie al fatto che siamo stati sostenuti da delle aziende che hanno sponsorizzato questa iniziativa. Quindi il 2017 sarà probabilmente, abbiamo incontrato già la Norvegia, probabilmente sarà Spagna, Francia. Tu sei di Torino, la tua famiglia cioè com'è composta? Qual è la tua storia di partenza? Ma dovevo essere sincero, ho avuto una famiglia un po' difficile, dove i miei lavoravano al mercato, quindi non, diciamo, sono diventato imprenditore, ma non perché figlio di imprenditori. Sono partito dal basso e forse è stato questo l'aiuto, partire dal basso sia per una situazione familiare sia anche poi dopo l'incidente mi ha fatto rendere conto prima di tutto di quanto sono fortunato, nonostante le mie difficoltà, e quindi mi ha fatto vivere le cose con un altro punto di vista. E, la mia famiglia, mio papà poi era molto, mio papà è del 20, è mancato poi nel 2007, mia mamma invece è ancora super attiva, però diciamo così, non è che sono mai stato molto supportato da loro. E quindi fin da giovane, anche prima dell'incidente, ho sempre avuto questo carattere nel cercare l'indipendenza, rendermi autonomo al di fuori della mia famiglia. Hai dei fratelli, delle Sì, sorelle? ho un fratello di un anno e mezzo più piccolo, lui ha fatto anche lui scelte diverse di lavorative, però abbiamo comunque un buon rapporto e vive vicino a casa mia. Quindi tu sei il primogenito, diciamo. Sì, esatto, sì. E hai dovuto tirar su, da quello che dici, forse sei stato tu che hai tirato su di morale gli altri quando ti è successo l'incidente, perché da come ti proponi sei uno abbastanza vulcanico. Bah, devo dire che anche la cosa stimolante è stata proprio questa, il fatto di aver fatto questo passaggio, questo passo che mi ha portato, diciamo, serenità, che non è che ci ho messo 2 secondi, Eh è sì, una cosa che immagino. è durata un paio d'anni, che però non sono neanche troppi, diciamo così, un paio d'anni che era. In realtà già subito mi sono messo alla prova, ad esempio ho provato un sacco di attività sportive per cercare di capire il limite del mio corpo e poi ho sempre girato molto, ho anche viaggiato per cercare anche il limite poi psicologico, perché il problema più grosso è questo oggi, il limite psicologico, non tanto quello fisico, anche se il cambiamento fisico è notevole sotto anche altri punti di vista, che la gente magari non vede, non conosce. E infatti lì puoi aprire la parentesi proprio su questo punto. Però devo dire che ho riscoperto che portando semplicemente anche solo il sorriso e la serenità in giro per il mondo, le persone sono attratte tutte indipendentemente da questa cosa. E quindi quando ti conoscono e tu, nonostante la tua difficoltà, racconti cose positive. C'è entusiasmo e vengono fuori racconti, si creano addirittura delle amicizie inaspettate e questa cosa devo dire che è una ricarica nella mia vita che è quella che oggi mi porta ad essere così positivo. E quando dicevi di cose inesplorate di cui non si parla, che non si conoscono, a cosa ti riferivi? Vabbè, sono anni che anche cerco di lavorare sul tema, ad esempio, sessualità e disabilità. Che è un tema già difficile in Italia per la nostra cultura anche cattolica, è un po' meno difficile parlarne all'estero. E questo perché la domanda che si fanno poi alla fine tutti è: ma come fa, non fa, succede, non succede? Quindi per togliere un po' di rispondere un po' di domande, cosa ho fatto? Praticamente. Circa 6 anni fa ho scoperto un prodotto che è l'Intimate Rider, un prodotto che ha inventato un americano che è una semplice seduta con una panca per l'attività intima sessuale, no? E mi piaceva come prodotto perché in America veniva comunicato sia da una coppia normodotata che una coppia disabile, cioè in Sì. sostanza al posto di una lavatrice sediamoci da un'altra parte, no? E in questo prodotto un po' divertente dava la possibilità di riprendere di nuovo un sacco di posizioni che sul letto alcune erano difficili da rifare, no? anche se tipo, riesce a muovere in modo ginnico, però alcune posizioni era complicato. Poi, oddio, non tutti sono alla ricerca di tante posizioni, quindi. Quindi cosa ho fatto? Me lo sono fatto arrivare, l'ho collaudato e poi dopo aver visto il buon funzionamento del prodotto, ho usato la scusa del prodotto, della tecnologia per parlare e cercare di organizzare dei convegni e degli eventi dove parlare di sessualità. E come E l'hai fatto? quindi ho fatto la prima fiera, ad esempio a Milano, che c'è stato sulla disabilità, ho partecipato a un convegno dove c'ero io come designer che presentavo questo prodotto e portavo anche la mia esperienza personale, oppure c'era Max Olivieri che oggi è molto conosciuto in Italia per la battaglia che sta portando avanti sull'assistenza sessuale, cosa che figura che ad esempio in Nord Europa fa parte dell'ente pubblico, diciamo, riconosce questa figura. e così via. Ci sono poi anche altre persone interessanti che stanno lavorando su questo tema, quindi quando organizziamo dei convegni ci mettiamo un po' assieme. La mia intenzione è sempre stata quella proprio di non mettermi dentro ai luoghi dove si parla di disabilità, sì, ma uscirne sempre fuori, perché poi la realtà dei fatti è che tutti noi abbiamo comunque sempre, ci sono tante persone che comunque vivono o hanno il figlio, o hanno dei parenti, o degli amici, o comunque una situazione di disabilità in casa, e quindi è giusto riuscire ad andare a casa, anche grazie a voi che mi fate intervenire in radio, a raccontare questa situazione per riuscire a entrare a casa di tutti. Se tu dovessi individuare una prima volta fondamentale nella tua vita, quale sceglieresti? Vabbè, sì, sicuramente è stato determinante. L'incidente è stato un motore che ha attivato questa testa in un sacco di attività, nel senso che ho proprio toccato con mano che la vita è una sola, che la si perde veramente in tempo di secondi, e quindi ho detto il tempo bisogna veramente lavorarci bene, divertendosi, cercando di far diventare le proprie passioni delle proprie attività, e cercando di provare a far capire alle persone che tante volte si fanno delle seghe mentali su delle cavolate, far vedere che le cose belle ce ne tantissime, basta aprire la finestra per guardarsi un po' attorno per rendersi conto di quante cose belle abbiamo attorno, quindi e di che fortuna, perché tante volte anche lì ascoltiamo la televisione, vediamo tutti questi incidenti, queste situazioni bruttissime, ma non ci servono per farci rendere conto di quanto siamo fortunati, quindi diciamo che la mia prima volta è rendermi conto di quanto sono stato fortunato, quanto sono fortunato ad avere in mano la mia vita, no? La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio anche per i messaggi che scrivete. Potete riascoltare questa ed altre puntate in podcast. La nostra pagina, la pagina della prima volta, la trovate andando sul sito di Radio 24. Buona serata a tutti da Cristina Carpinelli. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno all'alto di un cielo diamante, i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, dancing in the dark, ballare piano in controluce. Thank you.